qui, io sono qui, io sono qui, io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui, di Matteo Caccia. Nelle notti calde di Cina ho spesso pensato a lui. Non so e non voglio sapere se ogni tanto anche lui ha pensato a me e a come potrebbe essere stata tra noi due. Sono Miriam, vivo tra Trieste e il resto del mondo, mi piace viaggiare, mi piace l'arte e mi piacciono i tramonti d'inverno. E non le piacciono solo i tramonti d'inverno a Miriam, le piace anche scrivere e le è piaciuto mandarci questa storia. Noi quando l'abbiamo letta ci siamo detti, vabbè, che sarà mai, è una storia d'amore. Anzi, è una storia di non amore, cioè è una storia di un amore taciuto, tacito forse anche tra le due persone che fanno parte di questa storia. Non verranno fatti nomi all'interno della storia di Miriam, cioè lei non li ha fatti e figuriamoci se li facciamo noi, perché appunto è una storia di non amore per dei motivi ben precisi, perché una di queste due persone è già un amore. Ce l'aveva e ce l'ha e una famiglia anche, e quindi per tutti diciamo i pudichi all'ascolto sappiate che non è successo nulla semplicemente tra queste due persone, semplicemente non c'è un tradimento, non è una storia di tradimento questa, è una storia di come capita ad alcuni, non so se capita a tutti ma ad alcuni sicuramente sì, capita di vivere degli amori che semplicemente non sono vissuti, non consumati, quello è un altro paio di maniche, proprio non sono vissuti per mille motivi. C'era un verso di Gozzano, io di poesia so veramente pochissimo, però c'era un verso di Gozzano che si imparava a memoria da ragazzini quando volevi fare un po' il figo con le ragazze, che era: non amo che le rose che non colsi. Tra l'altro ho fatto una ricerca 2 secondi prima di andare in onda e ho scoperto per la prima volta, perché giuro che non la sapevo che poesia fosse di Gozzano, ho scoperto che si intitola Cocotte e che prosegue così: non amo che le rose che non colsi, non amo che le rose che potevano essere e non sono state. Vedo là case, ecco le rose del bel giardino di 20 anni or sono. Voilà, abbiamo letto anche una poesia in diretta, credo non succedesse dal 1989. Questo, ripeto, era Guido Gozzano e così era per dare un po' più di ciccia a quel verso che tutti, che molti conoscono e che è splendido e anche molto rappresentativo. Sicuramente nessuno, mi è partita la penna mentre parlavo, sicuramente nessuno ha colto nessuna rosa in questa storia, però quel sapore, quel profumo delle rose, entrambi i protagonisti di questa storia l'hanno vissuto, anche se Miriam si trovava lontanissima ad Oriente, nel caldi tropici della Cina. Negare, negare e sempre negare. Negare ad esempio a me stessa che il sentire la sua voce qualche giorno fa via Skype mi abbia fatto sentire bene, al caldo. Mi abbia fatto sentire nostalgia di lui, del suo sorriso paziente. La sua voce mi ha scoperto i nervi un'altra volta ancora. Mi ha fatto sentire di nuovo di desiderare le sue mani, come le ho desiderate colpevolmente per giorni, per mesi, fino alla mia partenza per la Cina. Se mi avessero detto che partire sarebbe stato anche, e forse soprattutto, un sollievo della sua bellezza abbagliante, capace di inchiodarmi al muro e mettermi a nudo, che sarebbe stato un modo di salvarmi dalla sua attraente e fatale intelligenza a spigoli, ci avrei creduto poco. Meglio pensare che sarei andata in Cina per la carriera, no? Per diversificare il curriculum, piuttosto che rifarmi da una storia tossica in cui ero rimasta intrappolata. E invece alla fine, nell'amichevole chiacchiericcio cinese, nelle folle ordinate, avvolta nel calore tropicale, continuo a pensare a lui, trovando riposo dall'insensatezza di esserne innamorata, intonando il celebre lontano dagli occhi, lontano dal cuore, come un mantra. La banalità di un amore impossibile. Chi non c'è passato? Sono stata in Cina 4 mesi per completare un master di specializzazione professionale in management e come volontaria insegnavo inglese a una scuola elementare nella periferia di una grandissima città. Sono entrata in Italia perché era previsto, mi è dispiaciuto, spero di tornare. La sua bella moglie, per niente stupida, orribile e limitante, e nemmeno un po' noiosa, come la vorresti. I suoi figli, che non esiterei a definire stupendi, educati, svegli e perfino concordi tra di loro. Niente che non va a cui potermi aggrappare. Piuttosto anzi nutro una grande ammirazione per la tenacia con cui affrontano ogni giorno assieme, come una famiglia del resto. Eppure la certezza c'è, questa sì, di condividere con lui il tormento e quel misto di egoismo e spregiudicatezza che io chiamo passione. Se no come fai ad innamorarti, se non pensi che qualcosa che lega solo voi due c'è ed è vivo? Nelle notti calde di Cina ho spesso pensato a lui. Ci sentiamo più di qualche volta, del resto è un collega, anche se per un tempo breve. Ed è capace di generosità e di vera amicizia. Non so, e non voglio sapere, se ogni tanto anche lui ci ha pensato. A come potrebbe essere tra me e lui? Se si è chiesto perché, più di una volta, mi abbia chiamato sfida. Tra noi c'è stima, ammirazione, correttezza e anche senso del limite, quindi non so se l'avesse capito allora o se lo sappia adesso. Certo, è tra le persone che ascoltano Siete Qui, quindi ora di nasconderglielo diventa impossibile. Spero almeno che gli strappi un sorriso. Quando sono arrivata, ormai mesi fa, ha fatto per me il gesto più gentile che io, che pure sono stata tanto fortunata, dicevo il gesto più gentile che io abbia mai ricevuto. Mi ha ricordato quando a 14 anni ebbi in regalo una conchiglia con dentro una rosa per San Valentino. Mi ha scritto una mail dove mi rimandava al podcast di Voi Siete Qui. Non sapevo nemmeno che cosa fosse un podcast. E non solo l'ho imparato, ma sono diventata anche un'ascoltatrice assidua. Nonostante gli scherzi che ogni sito occidentale fa qui da queste parti, interrompendosi spesso o sparendo del tutto. Spero che vorrete leggere questo confuso intrico di parole, patetico e romantico. Un omaggio a lui. E del resto questa è la mia storia. E io sono qui. Oh, get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it may as well be me. Here am I now after hours. Here am I now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and our hands, with our catchy tunes or words. Now we're photogenic, you know. Perché storie d'amore, storie che parlano di amore, di fidanzamenti, di matrimoni o di sfidanzamenti e di smatrimoni, se si dice così, o di matrimoni che si chiudono, ce ne arrivano a Voi Siete Qui. Questa però, la storia di Miriam, è una storia un po' diversa, perché è una storia d'amore quasi senza l'amore, e quindi è per questo che abbiamo voluto raccontarla ed è per questo che Miriam è al telefono con noi. Pronto Miriam, buongiorno. Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. È un grande piacere come sentirti. Stai? Io sto benone, ti ringrazio. È un piacere sentirti, ti dicevo, perché in realtà quando io ricevo... Tu adesso sei in Italia, giusto? Adesso sono in Italia. Sei in Italia, però quando ho ricevuto e quando ho letto il tuo racconto, io ti immaginavo là, in quel caldo tropicale cinese. E in che zona della Cina, se si può dire? Terrificante, ero nel sud della Cina. Nel sud della Cina. Terribile. Che, sì, che, sì, sono, le zone, che sono le zone dei romanzi di Conrad, no? Esatto, io me lo immagino esatto. Così, con quel calore il tropicale. Il capolinea di Marco Polo, un caldo pazzesco. Esattamente. Senti Miriam, siccome è una viaggi cosa... degli eroi. È una cosa molto delicata, la storia. Facciamo che io ti chiedo delle cose, se tu non vuoi rispondere, non mi rispondi, ok? Facciamo bene, questo vai. Patto sin da subito. Una domanda facile è: da quanto ci ascolti alla fin fine? Cioè, quando ci hai scoperto grazie a lui? Quasi un anno, sarà da febbraio. No, meno di un anno, comunque sì, da febbraio. E più o meno te le sei ascoltate tutte, quindi? Sì, podcast. Bene, certo, il podcast ormai è un mezzo, è quasi svincolato dal mezzo radiofonico il podcast ufficialmente. Vabbè, a me è cambiato la vita, forse più il podcast, o le due cose insieme, il mix fatale. Ti ricordi, mi dici qual è la storia che ti ricordi di più quando pensi a Voi Siete Qui, se ti viene in mente una storia del programma? Sai che in realtà non lo so, perché la cosa più bella è stata che io le mettevo sull'iPad accanto al cuscino, quindi la sera, per cui le ascoltavo in sequenza. Ok. Ed era come avere tutte le persone con tutte le loro storie con me. Vicine. E questo veramente mi ha incinato e ti addormentavi ascoltandolo? Mi addormentavo ascoltandolo, e la mattina se riuscivo riprendevo o la sera riprendevo da dove avevo lasciato. Devo dire, per cui ho... Dimmi, scusami Miriam, per cui hai sviluppato una sorta di grande puzzle di storie in realtà. Sì, sì, okay. Ed era come se fosse tutti con me, questo ha fatto sicuramente la differenza. Ecco, questo delle tutte le persone di voi siete qui che sono con te lontano in Cina è una bella immagine. Devo dire che ancora devo capire se questa storia di molte persone che mi ascoltano e si addormentano con la mia voce è un complimento oppure no, però io lo metto dalla parte del sì. C'è un cane che abbaia. Non è solo la tua voce. Certo. C'è un cane che abbaia, dove ti trovi esattamente? Io adesso sono in montagna, okay. E sono riuscita a prendermi qualche giorno di ferie e poi riprendo a lavorare la settimana prossima. Senti, però adesso tu lavori ancora per quella multinazionale, cioè per quella multinazionale, per quell'azienda lì, oppure hai cambiato vita? No, io ho cambiato tutto, diciamo, un po' alla volta e adesso sto cercando qualche cosa di nuovo che un po' è nato dalla Cina e un po' è nato da un percorso che veniva da, diciamo, da prima. Adesso questi due percorsi si stanno unendo e spero di poter tornare in Cina l'anno prossimo. Ah, ok, quindi l'obiettivo è quello lì. Sì, l'obiettivo è tornare in Asia, poi per un tempo più breve sarebbe meglio perché ovviamente lì il caldo è fatale, caldo pazzesco, sì, caldissimo. Posso chiederti come stai adesso, Miriam, rispetto a questa storia o in generale anche? Bene, sto bene, è stato tutto un po' in fretta e... Non ti sta mangiando questo cane, vero? Ormai siamo... No, è mio! Ah, è il tuo! Ah, ok! È mio! Ok, quindi ci tranquilli. Ok, tra padroni e cani... Senti, purtroppo non ho tantissimo tempo, Miriam. L'hai trovato uno straccio di fidanzato adesso oppure sei tranquillamente single? Lasciamo stare! Benissimo! Però tu sei giovanissima, giusto? Quindi ancora... Cioè, non hai problemi... Non sono proprio giovanissima. Vabbè, diciamo. Però diciamo d'animo, di voce, di spirito, noi ti immaginiamo così. Ma poi non è un problema, sai. Ma quello non è un problema. Diciamo, quello... Né averlo né non averlo. Lo so benissimo. Però semplicemente di solito uno cerca di stare meglio nella vita, no? Giusto? Quindi se le cose possono. Mi sono ripresa. Okay. Diciamo, sono stata benissimo da una storia difficilissima e veramente molto faticosa. E incontrare questa persona, lavorare con una persona come la persona appunto a cui è dedicata questa storia, mi ha aiutato tanto e spero sia stato anche viceversa. Bene, e ce l'auguriamo anche noi. Miriam, ti ringrazio per aver raccontato questa storia perché me ne hai fatto venire in mente una simile, ma non troppo, che adesso racconterò. Grazie ancora. Va bene, ciao. Ciao okay. Miriam, a presto. Ciao ciao. Ciao ciao. Al terzo anno di università, uno dei primi giorni, ci dicono che c'è una francese che verrà in corso con noi. Questa non porta niente di buono, penso. Intanto lei è sposata, e per me essere sposati equivale a dire le preghiere prima di andare a dormire. E poi è spigolosa, frangia, zigomi, gomiti, ginocchi, tutto spigoloso. Stringe la mano a tutti, ha la voce bassa e calda, e con un'inflessione aggressiva dice a tutti «Piacere, Valérie!» E parla un po' come l'ispettore Clouseau, ma arrabbiato, e a me viene da ridere. Mi chiede perché io rida, e lo fa in maniera ancora più aggressiva, e a me viene ancora più da ridere. Lei si arrabbia sul serio, però io non riesco a smettere di ridere. Insomma, diventiamo inseparabili. I giorni passano, e conosco il marito di Valérie. Mi piace. Lui lavora in borsa. Ha un fisico da contadino, mangia formaggi tutto il giorno, la faccia sveglia e una collezione di CD in continua evoluzione. Ha 32 anni lui e dice che a 35 sarà out, sarà fuori. Il suo sogno non è lavorare in borsa, è quello di comprarsi un bagno su una spiaggia e vivere il resto della vita in costume da bagno. È gelosissimo di sua moglie, ma non di me. Diventiamo amici. Usciamo spesso io e lui, da soli. È ricco, paga sempre lui. È sveglio, ma un errore lo commette anche lui. Mi dà una serie di indizi che io posso usare a mio vantaggio. Valérie rimane impressionata perché io cito canzoni che non ho mai sentito e le racconto di luoghi che non ho mai visto. Le mostro che sono innamorato di quello di cui lei è innamorata. Come arma di seduzione devo dire che la complicità di un marito è una bomba. Io non faccio calcoli, però voglio piacerle. Una sera che sta a Genova da sola per lavoro, la vado a trovare. Sono passati un paio d'anni da che ci conosciamo. La scuola è finita da un pezzo. La trovo sempre spigolosa. Adesso però mi piace. Attraversiamo Genova di notte, tra i carruggi deserti. Da lontano arrivano rumori che non ti fanno stare sicuro, roba che per un ragazzo e una ragazza insieme è il massimo. Ci infiliamo su per una scala e entriamo in una casa buia. Comunque vada, so che questa notte non chiuderò occhio. Nella camera c'è un materasso da una piazza e mezza. Sopra il materasso c'è una finestra e dalla finestra filtra la luce gialla di un lampione. Mi fumo una sigaretta. Fumo anche lei. Con i suoi occhi duri, per niente animati da quel pathos cialtrone che hanno quasi tutti gli occhi di qui, mi dice che c'è uno che le fa girare la testa. Andiamo a dormire, dico io. Dove mi metto? E dove ti vuoi mettere? Come no? Non chiuderò occhio stanotte. Sta confidenza non me la doveva fare. Sono amico di suo marito io. No, non me la doveva fare. Mi giro verso il lampione, le do le spalle. Valerie mi abbraccia da dietro, prima con un braccio e poi con una gamba, senza dire niente. Avvicina la sua faccia, la sua bocca alla mia testa, al collo, all'orecchio. Io mi giro. La mattina riparto e non ne riparliamo mai più. Qualche mese dopo, durante una serata con tutti gli altri, mi prende da parte e mi dice: ti devo dire una cosa. Adesso mi dice che si è innamorata di me, penso. E l'idea comincia a preoccuparmi. Lei mi guarda e mi dice: sono incinta. Volevo che fossi il primo a saperlo. Io faccio finta di essere felice. Sono deluso che non mi abbia detto di essere innamorata di me. Volevo che fossi il primo a saperlo perché ti amo, mi dice con la sua parlata da ispettore Clouseau arrabbiato. Riesce a rendere comici anche i momenti più emozionanti. E poi nasce Zoe e Valérie, Zoe e suo marito tornano in Francia. A suo modo, è stata una storia d'amore, la nostra. Quando ho letto la storia di Miriam, ho pensato subito a questa storia qui. Di solito vi racconto qualcosa che mi è capitato o qualcosa di cui ho sentito parlare. Questa volta invece la storia che vi ho appena raccontato fa parte di un romanzo che ha scritto il mio amico Mauro, Mauro Pescio. E alla fine della storia di Miriam ho capito che, primo, se è l'amore a chiamare, anche la Cina è vicina. Secondo, i podcast di Voi Siete Qui sono anche un'arma di seduzione. Terzo, le ragazze che fanno ridere sono irresistibili. Quarto, non esiste una storia d'amore uguale a un'altra. Quinto, una storia d'amore resta una storia d'amore, anche quando non si realizza del tutto. Chissà perché, quando si parla di amori e lo si fa in maniera tutto sommato sincera e anche forte, ma forte non direi, però in maniera sincera, come ha fatto Miriam, subito le reazioni sono le più diverse, anche, soprattutto probabilmente perché si fa riferimento a un uomo che è sposato. Però ripeto, qui sotto c'è che non è successo nulla, no? Miriam è chiara. 349-238-6666, a proposito di amori non vissuti, Marco scrive: si chiamava Giulia, l'ho conosciuta, l'ho conosciuta e frequentata un'intera estate. Eravamo animatori in un villaggio, ma entrambi già fidanzati. Mai successo nulla, ma era chiaro che ci fosse una forma di amore, almeno per me. E in questo almeno per me, Mario, c'è tutto, almeno per me. Vorremmo sapere anche la sua versione, però ti crediamo. Sergio: quando ho incontrato Thea, lei era sposata e io no, non accade nulla. Ci siamo rivisti dopo 5 anni, io ero fidanzato e lei non più. Non ci siamo più visti e ciao. Anche in questo e ciao c'è parecchio. E ciao anche a tutti quelli che hanno ascoltato questo programma. Ciao e grazie soprattutto a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, a Marco Lombardo, che oggi eccezionalmente ha fatto l'assistenza per il programma al posto di Miriam Lucchetti, che è a farsi qualche giorno di vacanza. Dove, Paolino? A Londra. Miriam Lucchetti è a Londra. Io ringrazio però soprattutto Miriam, non Lucchetti, ma Miriam, l'autrice della storia che avete sentito e con cui abbiamo parlato al telefono. Ringrazio lei, ringrazio Mauro Pescio che ha scritto questa puntata, ma soprattutto Miriam. La storia di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Sono Sergio, vivo a Castelfranco Emilia in provincia di Modena. La storia di domani è la mia e parla di un atto di bollismo che si è trasformato nel tempo ed è diventato un evento sportivo al quale partecipano migliaia di persone. Questa è la mia storia e io sono qui.